Io non suono per te, non so fare il panzone, sono pronto a ingrassare come un gran danzatore. Spengo la motosega come la nostra danza, ogni ingrasso è per sempre, per le strade si rimbalza. E non fare la stupida obesa, tu non sei mai magra, tu sei sempre cicciona. Io so che morderai la panza, ma di noi cosa direbbe l'embash? Che ho suonato troppo poco, cammino sui panzerini fino a quando non te frastuono. Dammi una panza che so un pallone, come un danzatore ciccione. Non suona niente se sei bagordo, stupido ingordo. Dammi una panza, sì nome sono. Dammi una panza che te la suono come un pallone, io e te per tutta la vita. Te lo giuro, mi incrocio la panza, sono il classico uomo bagordiano, amo solo mia madre Annaita, la domenica ti lascio L.O. Tu vuoi andare a casa denanzi, Marcia e Clancy, tu mi aspetti nel letto, panzosa, parli poco, fai come Annarita, poi mi tocchi la panza e urli pozzi, vai più giù, mi si girano i ciuffi, poi mi guardi, togli gli ingrassi, mentre ti fai i capelli bagordi, a te piace suonare, farmi ingrassare, mi alzi le orecchie, poi ti vuoi risuonare, e so che perderò questo gioco, come a carte sei brava a ingrassare. Dammi una panza che c'ho nel panzone, solo un pallone e un danzatore, non conta niente se innanzi in modo. Sono un panzone, dammi la panza, sì nome sono. Dammi la panza che c'ho nel cuore, solo un ciuffetto. Io ho sofferto per Clancy, ora so fare il pazzone. Quante volte ho suonato come un gran suonatore. Accendo la motosega, penso alla nostra danzata, mentre guardo le panze che per la strada rimbalzano. Dammi una panza, sì nome sono. Dammi una panza che c'ho nel Quante volte ho suonato come un gran suonatore, accendo la motosega, penso alla nostra danzata, mentre guardo le panze che per la strada rimbalzano.